tu. I giorni più belli che ricordo sono sempre quelli dove ci sei tu. Impressi nella mia mente i ricordi di ieri, come fotografie conservo anch'io le mie. Scelgo le più belle dove ci sei tu. I love you, I love you, I love you. Favola che nasce dall'anima e può essere bella.